con Pierluca Ditano, regista del documentario Per chi vuole sparare, che sarà presentato sabato 3 febbraio al Blue Desk qui a Roma. Allora, Pierluca, benvenuto. Grazie, salve a tutti. Per chi ci ascolta, diciamo subito di cosa si tratta, cosa racconta questa storia? Per chi vuole sparare, racconta un po' della vita di Peppino, carrettiere al mercato di Porta Palazzo a Torino, napoletano, che insomma, è un po' abituato a inventarsi sempre modi per fare soldi veloci, e nel film ne inventa uno presso la sua ciurma di. Insomma, il gruppo degli altri carrettieri che, come ogni giorno, montano e smontano questo grande mercato. Senti, questa realtà dei carrettieri, come hai deciso di trasporla cinematograficamente? Guarda, io vivo a Torino quasi 4 anni, vivevo praticamente nella piazza a fianco a Piazza della Repubblica, quindi mi capitava quasi ogni giorno di vedere questa processione di carretti di ferro trainati a braccia, che appunto contengono parte della merce, la struttura delle bancarelle del mercato, e mi sembrava un lavoro fuori dal tempo. Così piano piano mi sono avvicinato a loro, prima ho conosciuto Gianni, poi Peppino, insomma, pian piano mi ci sono avvicinato, scoprendo queste vite rudi, ma che in qualche modo hanno voluto aprirsi al film. Ecco, che tipo di esistenze ruota attorno a questo lavoro? Guarda, come dire, sicuramente quel mercato è una specie di Babele che accoglie gente da ogni dove, oggi come ieri, nel senso è un posto che ha. A quel quartiere in particolare ha accolto gli immigrati meridionali negli anni 60 e oggi i nuovi immigrati. Quindi in qualche modo è un posto che offre sempre possibilità, certo non sono possibilità chissà quanto eccezionali, ma è un posto in cui ecco, la gente non perde mai la speranza. Senti, indicativamente di quante persone stiamo parlando? Quanto lavoro c'è dietro? Parli dei carrettieri o Di in generale del carrettieri? mercato? Sì, no, dei carrettieri. Guarda, parliamo di un. Ci sono vari gruppi di carrettieri, però il gruppo, diciamo, del film sono una quindicina di persone. Ho capito. Senti, e questo documentario come l'hai costruito? Che cosa racconta? È un tuo seguire alcune di queste storie nella loro giornata? Il film parte fondamentalmente dalla routine dei carrettieri, cioè dal cercare di far passare la sensazione di perdersi nel tempo. Fai conto, sono vite che la vita di Peppe così, ha dei tempi stranissimi, loro lavorano prestissimo la mattina, a volte la sera, a volte il pomeriggio, a seconda di quando chiude il mercato. Quindi fondamentalmente sono sempre un po' frastornati alle poche ore di sonno o dal dormire la mattina, quando il mercato va, no? Loro sono un po' il backstage di questo mercato. Parte così, ad un certo punto c'è uno switch narrativo che è il momento in cui Peppe inventa questo affare, che non voglio, non so se svelarlo o non svelarlo. No, no, Voglio non uno sveliamo, indovina non vedere. sveliamo. Lo svegliamo, no? Non ho capito. Non sveliamo, no, Non no. svegliamo. C'è un certo punto in cui lui inventa questo affare che è il filo rosso del film, che poi ti porta fino alla fine. Senti, il titolo fa riferimento anche a questa cosa che stavi accennando. Sì, esatto. Il titolo fa riferimento a quello che Peppe si inventa. L'idea era. Tu dici perché questo titolo così aggressivo? In realtà è una frase di Peppe della scena finale, sparare. Per me, mi sono sempre chiesto chi è che voglia sparare e in che senso, ma per questo bisogna andare a vedere il film. Penso che quelli che vogliono sparare in qualche modo è chi ci crede, nonostante tutto, nonostante quello che possono essere le difficoltà di qualunque vita. Poi nel film si capisce cos'è che si spara, perché sennò sembra una roba brutta. Oh, Pierluca, che percorso sta facendo il tuo documentario? Allora, il film ha avuto la fortuna di essere presentato a Vision d'Urel, che è uno dei festival più importanti in Europa. È il film di diploma, il mio film di diploma della Zelig, che è questa scuola di documentario che c'è a Bolzano, molto, molto bella e molto, insomma, è stata molto importante per me. E dopodiché è andato in giro in altri festival in Italia, e non solo. Settimana prossima, mi pare l'8, siamo in Francia, a Poitiers, e poi sta facendo, per fortuna, ne sono molto contento, un piccolo tour in tutta Italia, in circoli e non solo, insomma, cerchiamo di portarlo un po' in giro, anche non prettamente nei cinema, insomma. E poi ho avuto la fortuna anche di vincere il premio Gavioli, che è questo premio che viene assegnato tutti gli anni, tutti i giorni no, ai documentari che raccontano il mondo del lavoro e dell'industria a Brescia. Senti, proprio a questo proposito, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più sul documentario, sul suo percorso? Certo, molto volentieri. C'è una pagina Facebook che basta cercare per chi vuole sparare, in cui man mano aggiorniamo proiezioni o insomma aggiorniamo, si può seguire la vita del film. Ok. Allora, un ringraziamento e un saluto a Pierluca Di Tano. Ricordiamo il suo documentario Per chi vuole sparare. Sarà programmato sabato 3 febbraio qui a Roma al Blue Desk. Pierluca, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Alle 6:30, mi raccomando, a Roma. 18:30, è vero. Grazie Ciao a te, Pierluca. molto gentile. Ciao.